Stiamo facendo un presidio qui davanti ai cancelli dell'azienda, che ora si chiama Dolciaria, e perché sono 2 mesi e mezzo e non percepiamo più lo stipendio. Noi siamo fuori in sciopero dal 26 di novembre, perché da quella data praticamente una parte dei lavoratori sono stati trasferiti a questa nuova azienda e una parte non è stata trasferita. I stipendi non sono stati più pagati e in più è in atto una procedura di mobilità per 21 persone. Nel frattempo sono stati licenziati 3 lavoratori, 2 lavoratori e una lavoratrice per, con un provvedimento disciplinare. Questi sono i motivi della protesta. Senti, i motivi disciplinari quali erano secondo Ma l'azienda? sì, loro dicono che queste persone hanno aggredito verbalmente dei dirigenti, una cosa che non è assolutamente vera, tanto è vero che ci sono una petizione di 30 lavoratori che hanno firmato, che si trovavano lì, in quella situazione hanno firmato questa petizione, che ciò non è successo. Senti, le vostre richieste quali sono, a parte ovviamente il ritiro dei procedimenti di licenziamento? Ma noi vorremmo insomma un tavolo di trattativa per verificare effettivamente le problematiche qui dell'azienda in maniera tale da poter trovare delle soluzioni. Innanzitutto per i 21 lavoratori che sono in mobilità vorremmo, che dovrebbero essere messi in mobilità, invece vorremmo un percorso un po' diverso, una cassa integrazione a rotazione che permetta a tutti di rimanere legati all'azienda. Poi innanzitutto dovrebbero essere ripristinati quei meccanismi che ci sono tra datori di lavoro e lavoratori, e quindi col pagamento dello stipendio, perché anche se noi dal 26 che siamo in sciopero, proprio dal 26 i lavoratori hanno lavorato, e poi venerdì sono stati pagati gli stipendi a quelli che adesso stanno, che in questi giorni hanno lavorato. Noi vorremmo che vengano ripristinate quelle condizioni minime che dovrebbero esserci in un rapporto di lavoro. Ho capito. Senti, invece stamattina come sta andando la protesta, il picchetto? Questa Ma da questa mattina presto, no? sì, noi non stiamo facendo niente di nuovo, quello che abbiamo fatto negli altri giorni, insomma. Siamo qui davanti ai cancelli e siamo qui aspettando che magari si possa trovare uno spiraglio di confronto, uno spiraglio di trattativa che permetta di superare questi problemi e di ripristinare, insomma, una situazione che permetta alle persone, insomma, di prendere lo stipendio. E magari se si trovano soluzioni anche di rientrare a lavorare. Senti, ma è tranquilla la situazione stamattina o ci sono state Sì, no, tensioni? no, assolutamente tranquilla. Noi insomma siamo molto pacifici, ci sono delle donne, ci sono dei bambini, ci sono una situazione veramente di tranquillità assoluta. Noi non vogliamo niente in più di quello che insomma ci aspetta. Va benissimo.